Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E poi ad un tratto un fulmine a ciel sereno. Siete malata? Lo sono stata, ma ora non più. Bunin mi trovò sull'argine della Senna. Forse è migliore di quanto pensiamo. O forse dovevo fuggire anche da lui, ma ero così stanca di correre. Vi sentite bene? Sì, e se per voi è meglio non credere. Voi siete malata? No, tossisco solo perché ho un po' di paura. Non è perché... Riditelo. Tossisco quando ho paura. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Un colpo di tosse famoso, quello di Ingrid Bergman nel film Anastasia. C'era anche Yul Brynner, ricordate, un film bellissimo. Tra l'altro descrive molto bene un tipo di tosse, quello che noi chiamiamo tosse nervosa, molti di noi, anche a me ogni tanto, anche io ogni tanto la sperimento, il desiderio di, non proprio di tossire, ma di schiarirsi la voce quando siamo un po' emozionati. Oggi, come avrete capito, parleremo di tosse. C'è tosse e tosse, può essere stizzosa, secca, grassa, abbaiante, roca, diurna, notturna, nervosa per l'appunto. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Io vorrei sapere da voi se tossite, quando tossite, se la tosse vi crea disagio. 800 24 00 24, chiamate subito e scriveteci al 349 238 6666. Insomma, vorremmo parlare di tosse e dare delle indicazioni, dei suggerimenti per tutti i tipi di tosse e per tutti i gusti. Insomma, a proposito di gusto, arriva dall'Inghilterra una ricerca che ci racconta una cosa curiosa, sicuramente piacevole, perché ci dice che il cacao sarebbe un prezioso alleato per tenere sotto controllo la tosse. Da oggi, per porre rimedio al colpo di tosse, ci si può affidare anche al cioccolato. È quanto emerge da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori inglesi che sono stati in grado di isolare una sostanza, la teobroma, che si trova nel cacao. Secondo gli esperti britannici, questa sostanza sarebbe in grado di sedare la tosse, tenendo sotto controllo l'infiammazione che scatena il disturbo. C'è un piccolo rifuso, si parla di teobromina, ma comunque questa è una buona notizia. Sentiamo cosa ne pensa il nostro esperto di oggi, il dottor Piero Ceriana, che è responsabile dell'unità operativa di pneumologia riabilitativa dell'Istituto Scientifico di Pavia, Fondazione Maugeri, che è in linea con noi. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. Allora, un po' di cioccolato? Beh, questo direi che, oltre che la tosse, pare che faccia bene anche per molte altre cose, la depressione, il tono dell'umore, eccetera. Però, visto che dobbiamo parlare di tosse, sì, effettivamente è arrivata questa notizia dall'Inghilterra. Un gruppo di ricercatori ha individuato questa sostanza, la teobromina, che ha un effetto sedativo antitosse. Sappiamo che la tosse è un meccanismo abbastanza complesso, di per sé sarebbe un meccanismo protettivo delle nostre vie aeree, e non dimentichiamoci che sono una porta aperta verso l'ambiente esterno, verso l'aria che respiriamo, con tutto quello che ne comporta. Quindi esiste un meccanismo protettivo proprio per che vengano riconosciute e rimosse sostanze estranee, e non solo sostanze estranee, ma è un meccanismo che interviene anche quando nell'aria sono presenti sostanze irritanti, quindi stimoli chimici, stimoli termici, stimoli quindi anche fisici. Pare che questa sostanza blocchi uno dei punti, diciamo, in cui questo meccanismo viene innescato. Diciamo che c'è un nervo che si chiama nervo vago, che è quello che, una volta irritato, conduce questi impulsi che poi danno via a questo meccanismo della tosse. Che fa partire il colpo di tosse. Diciamo che dobbiamo immaginarlo come una specie di cerchio che si chiude, lo stimolo arriva, colpisce le nostre vie aeree, diciamo dei punti particolari dove ci sono dei sensori, dei recettori, che poi inviano dei segnali lungo questo nervo. Questo nervo a sua volta porta l'impulso a certe parti del nostro cervello e il nostro cervello manda di conseguenza dei comandi ai muscoli della nostra gabbia toracica, della nostra laringe, e mette in atto quello che è il meccanismo della tosse. Pensate quanto lavoro c'è dietro a un colpo di tosse. Assolutamente, dottore. È proprio una serie di sequenze ben determinate e ben coordinate tra di loro che dà il via a questo meccanismo, che di per sé è abbastanza abbastanza semplice per chi lo effettua, ma dietro c'è un lavoro veramente notevole. Dottore, voglio ricordare il nostro numero verde ai nostri ascoltatori e voglio stimolarli ad intervenire chiedendo se ci sono dei periodi dell'anno, delle occasioni. Abbiamo aperto la nostra trasmissione con la tosse di Anastasia, tossiva proprio nei momenti in cui aveva più paura. Parleremo anche di tosse dei nostri bambini. Vorrei occuparmi anche della tosse, dottor Ceriana, che avvertiamo quando magari facciamo un po' di attività sportiva e quando viviamo come facciamo noi qua a Milano in città inquinate e quindi chiamo così, invito i miei ascoltatori a raccontarci non solo il loro tipo di tosse ma anche cosa fanno per sedarla, se questo per loro è una cosa facile oppure crea preoccupazione, insomma come gestiscono, come si relazionano questo sintomo. 800 24 00 24. Intanto abbiamo detto che ci sono vari tipi di tosse. Noi generalmente diciamo è una tosse secca, è una tosse grassa. Il dottor Ceriana poi ci racconterà di più, ma intanto io chiedo a Carmelo Rauricella, che regia la parte tecnica e che ringrazio, di mandarci il primo file. Abbiamo la tosse secca. Dottor Ceriana. La tosse secca che cosa ci racconta? La tosse, come dicevamo, è una, se torniamo al discorso originale del meccanismo protettivo, ci segnala che c'è comunque uno stato di irritazione delle nostre vie aeree. L'irritazione potrebbe benissimo essere in questi casi, diciamo nella tosse secca, nella parte alta delle nostre vie aeree, dove ci sono le vie aeree cosiddette di conduzione, quindi può originare dalle parti alte, laringe, trachea e grossi bronchi. E questo può stare semplicemente a identificare una problematica di tipo irritativo delle vie aeree. Il fatto che... Viene la tosse parlando di tosse. Viene un po' da tossire, c'è forse una tosse di simpatia e spesso chi ha la tosse secca sente un po' un pruritino in gola. Adesso andiamo a sentire invece l'altra tosse, la tosse grassa. Veramente se è bruttina, no? Che brutta tosse, direbbe il dottor Ceriana. Direi di sì. In genere quando c'è la tosse cosiddetta grassa è perché si accompagna anche una iperproduzione di muco e anche il muco, se vogliamo, è normalmente un meccanismo protettivo perché il muco crea una specie di collante, che crea una specie di matrice che va a imbrigliare queste particelle estranee che noi respiriamo con l'aria, e una volta imbrigliate ci sono poi le ciglia del nostro apparato respiratorio che le fa progredire verso l'alto, e dopodiché questa piccola quantità di muco che noi fisiologicamente produciamo tutti i giorni viene espulsa nel fazzoletto oppure viene deglutita. Ecco, questo è un meccanismo normale che avviene tutti i giorni. Quando questo aumenta di volume e di intensità, ecco che allora queste ghiandole che noi abbiamo nelle nostre bronchi producono più muco che si accumula nelle nostre vie aeree e quindi dà questo particolare aspetto sonoro alla tosse, che quindi diventa grassa o cosiddetta produttiva, perché in genere il colpo di tosse in questo caso è accompagnato anche dalla progressione, diciamo dall'arrivo di una certa quantità di muco nelle nostre vie aeree, che poi noi dobbiamo espellere. Noi oggi proveremo a curare la tosse, e andremo alle terme, parleremo anche di rimedi delle nonne un po' direi aggiornati e riconosciuti anche come validità dalla scienza. Ma parlando di tosse, c'è una tosse particolare che anche noi possiamo riconoscere senza essere dottori, che è la tosse del fumatore. E quando io parlo di fumo invito subito il dottor Roberto Boffi, pneumologo all'Istituto Nazionale dei Tumori. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. È direttore del centro antifumo. Dottor Boffi, il fumatore anche quando smette tossisce per un bel po' di tempo, perché? Beh, perché quando si smette di fumare si rompe inevitabilmente un equilibrio, perverso finché si vuole, ma pur sempre un equilibrio che ci sono voluti degli anni per raggiungere, dico purtroppo naturalmente, e per cui ci vuole perciò almeno qualche settimana o mese per ritrovare un normale respiro, una fisiologica capacità di espellere con la tosse le polveri e gli altri corpi estranei dai nostri bronchi, che sono ancora magari un po' anneriti dagli anni di fumo, per cui ci vuole un po' di pazienza, ecco. Quanto dura più o meno questo disturbo? Questo dipende naturalmente dallo stato più o meno cronico che si è raggiunto con gli anni di fumo. La tosse del fumatore di solito viene d'inverno, nei mesi più freddi, ma anche in estate, a contatto con l'aria condizionata, con forti sbalzi di temperatura, no? E quindi i fumatori sono mediamente più predisposti negli anni a riacutizzarsi anche, e comunque alcuni di loro hanno già sviluppato la cosiddetta bronchite cronica, no? Che per definizione, non so se ne avete già parlato, è la tosse con catarro che dura almeno 3 mesi all'anno per almeno 2 anni. Quindi ecco, questo è un dato da tenere, questi 3 mesi possono fare davvero la differenza. Io andrei a Lidia, che ci chiama da Bologna, 800 24 00 24. Lidia, buongiorno, iniziamo con lei. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto vi ringrazio di questa possibilità, e ascoltavo la vostra trasmissione, volevo chiedere al medico esperto se la tosse può essere collegata a delle allergie respiratorie, non solo di pollini ma anche di ambienti chiusi, e poi volevo sapere esattamente cosa fare per alleviare, insomma, questo fastidio. Dottor Ceriana, è in linea? Sì, certo. Come possiamo aiutare Lidia? Ci sono delle situazioni, delle allergie, non solamente i pollini, che fanno tossire? Buongiorno signora Lidia, innanzitutto. Sì, devo dire di sì, quello che ha riferito la signora è assolutamente una problematica molto frequente. Come dicevo, l'allergia non può necessariamente essere solamente a un allergene ben identificato come quello dei pollini, e quindi in questo caso dare una stagionalità alla tosse, ma può avvenire in occasione dell'esposizione ad altri fattori di natura chimica o di natura fisica, e per natura chimica intendo dire anche semplicemente dei profumi. Ci sono persone che tossiscono quando entrano in ambienti dove ci sono dei profumi particolarmente intensi, parlo non solo dei negozi di profumeria o dei parrucchieri, ma anche in altri negozi, e soprattutto all'esposizione a fattori fisici, e parlo quindi di sbalzi di temperatura. È abbastanza tipica una tosse che insorge magari al mattino, quando noi passiamo dal caldo del letto, delle coperte, e entriamo in una stanza un pochino più fredda, come magari la stanza da bagno o la cucina, che è un pochino più fredda, e quindi si comincia a tossire. Oppure quella che lei ha ricordato prima, la tosse che insorge in occasione di attività fisica, soprattutto se fatta d'inverno, dove durante l'attività fisica aumenta la nostra ventilazione polmonare, e quindi anche la temperatura dell'aria esterna non fa in tempo a riscaldarsi, e quindi arriva nelle nostre vie aeree fredde, quindi questi recettori, questi sensori di cui parlavo prima, si irritano e danno il via alla tosse. Dottor Boffi, ma allora cosa si fa per nel caso di Lidia, quando abbiamo questa particolare sensibilità, come si fa per eliminare la tosse, per sedarla, perché insomma preferiamo non averla, non so come dire. Ecco. Prima di tutto bisogna fare una diagnosi accurata, perché capire se c'è un'allergia, se c'è una cosiddetta iperattività bronchiale. Ci sono degli esami specialistici come il test alla metacolina di provocazione bronchiale, un esame assolutamente innocuo ma che bisogna fare in ambiente ospedaliero. Se poi non c'è un'allergia sottostante, allora bisogna fare la cosiddetta bonifica ambientale, cioè capire se ci sono degli ambienti indoor in cui si vive, si dorme, soprattutto con un'aria non sufficientemente buona, non sufficientemente salubre, troppo secca, troppo polverosa, peggio se si è esposti a fumo passivo, eccetera. Quindi dopo la bonifica ambientale, se no ci sono anche dei sedativi della tosse, o nel caso invece di una tosse con difficoltà a espettorazione, ad espettorare dei mucolitici. Però già intanto bere molta acqua per fluidificare il muco, mangiare molta frutta e verdura, questo dico soprattutto per i fumatori ma non solo, tipo mele, agrumi, che hanno una potente azione antiossidante, protettiva verso la bronchite cronica e l'enfisema, può essere sicuramente utile. Intanto vorrei che mi rispondesse ad una domanda di Marzio, ci scrive da Firenze. Scusi, ma ho acceso ora la radio, si può correre con la tosse? Dottor Ceriana. Ma allora, come diceva giustamente il dottor Boffi, bisogna prima arrivare a una diagnosi. Se abbiamo escluso tutte le cause possibili di tosse e siamo allora arrivati alla conclusione che è una tosse cosiddetta idiopatica, una tosse legata a una ipersensibilità individuale che interviene proprio in quelle circostanze, quando siamo esposti ad aria fredda, allora direi che possiamo fare in questo modo: o cerchiamo di correre in palestra sul tapirulan, se proprio il discorso non è risolvibile altrimenti, quindi cerchiamo di correre al chiuso, oppure cerchiamo di magari indossare una sciarpa, un passamontagna, qualcosa di che ci consenta di filtrare un pochino quest'aria fredda, in modo che sia un pochino più condizionata. Ecco, ci sono quindi lo lasciamo correre, Marzio. Lo lasciamo ma correre. Ma sì, direi, Marzio, sì. Enrico dalla provincia di Como, lei corre con la tosse, cosa avrebbe risposto Marzio? Pronto? Buongiorno Enrico. Buongiorno. Lei corre anche quando la tosse? Il problema è questo. No, io quando corro non tossisco. Sì. Cioè, forse la mia è una tosse diversa. Mi è stato detto che tosse. Come senti io in questo momento, essendo emozionato, continuo a fare dei piccoli colpi di tosse. Sì. Ecco, e sinceramente non me ne accorgo io. Cioè della mia. Sono gli altri che mi dicono perché continui a tossire. Non me ne accorgo. Mi dicono che è l'ansia, ecco, voglio dire. E parlando in pubblico, all'inizio ho un po' di difficoltà. Dovrei parlare con in mano una tavoletta di cioccolato, come si direbbe il dottore. Enrico, allora, sì. Dottor Boffi, perché Enrico ha bisogno di tossire? Quasi non se ne accorge, è una tosse tipo Anastasia? Beh, i sintomi respiratori sono i più soggettivi che esistano, sappiamo bene noi pneumologi, la dispnea, l'affanno lo è più di tutti, la tosse è anche un po' aggettivabile perché gli altri la sentono e quindi a volte, come al suo ascoltatore capita, ce la fanno notare, però c'è anche la cosiddetta tosse psicogena, va però diagnosticata per esclusione dopo che si sono eliminate tutte le altre possibili cause. Direi che la spirometria, forse ne avete già parlato, cioè l'esame della capacità respiratoria, è assolutamente un test dirimente per capire se alla base di quella tosse c'è un problema respiratorio, magari anche solo sotto sforzo, no? Che quindi evidenzia la cosiddetta asma sotto sforzo. Quindi... Io direi però, dottor Boffi e dottor Ceriana, ad Enrico e comunque in genere a tutti noi potrebbe fare bene un buon esercizio. Il dottor Boffi ce l'ha consigliato, noi abbiamo chiesto al nostro speaker di leggerlo e adesso siamo pronti per un esercizio di respirazione, una specie di stretching che aiuta tutti, secondo me. Andiamo e lo sentiamo. Seduto o in piedi, purché in posizione confortevole, inspira lentamente e profondamente, cercando di espandere al massimo l'addome e il torace, tenendo però fermi il collo e le spalle. Trattieni il respiro contando fino a 5 e poi espira lentamente fino a che l'addome e il torace non sono svuotati e tornano nella posizione originaria. All'inizio può essere utile mettersi di fronte ad uno specchio per controllare la postura e il movimento. Quando ti senti più sicuro, prova a tenere gli occhi chiusi. Concentrati sul rilassamento di tutti i muscoli. Ad ogni respiro, pensa ad una parte del tuo corpo che progressivamente si distende e lascia scivolare la tensione, dalla testa fino alla punta dei piedi. Al primo respiro si rilassa la fronte, al secondo gli occhi, poi le guance, la mascella, il collo, le spalle, le braccia, le mani, le gambe, i piedi. Sciogli le mani e i piedi, muovendo mollemente anche le dita. Continua fino a che non sei completamente disteso. Quando ti senti a posto, apri gli occhi e goditi la sensazione di leggerezza. 10 minuti tutte le mattine aiutano a recuperare la capacità polmonare e a ridurre, aggiunge il dottor Boffi, il bisogno di... di fumare, naturalmente. Perché... facciamo anche le rime per voi, per convincervi a smettere. Dottor Boffi, io la ringrazio per essere stato con noi. Voi, una cosa è certa, non capita solo a me, ma è al dottor Ceriana, anche a molti dei nostri ascoltatori. Ad esempio Mauro mi sta scrivendo adesso, a me viene da tossire ascoltandovi parlare di tosse. E succede. Allora, mercati meteo e poi tornate a tossire con noi. 800 24 00 24, vi aspetto qui, a tra poco. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, avete tossito intanto che sentevate i mercati o il meteo? 800 24 00 24 se volete tossire in diretta con noi e soprattutto sapere come si seda la tosse. Dottor Ceriana, la tosse è fastidiosa, è giusto usare i sedativi? Ma sì, i sedativi si possono usare, come abbiamo detto fino adesso è l'importante arrivare a una diagnosi, quindi individuare la cura, individuare certo. Il motivo per cui si tossisce, perché solo in questo modo si riesce ad individuare una terapia causativa, una terapia cosiddetta eziologica, che va a rimuovere la tosse dalla sua causa scatenante. Dottore, però... ma sa che uno aspetta un po' prima di andare dal medico? Esatto. Di solito, esatto. No? Noi ci curiamo perché diciamo, vabbè, un po' di tosse, hai preso freddo, sì. Oppure magari insomma ci sono tante ragioni, o un certo. Raffreddore. Che... ma lei, quanto lei possiamo... sa che noi ci dividiamo un po' in due categorie, quelli che non vanno dal medico neanche a pagare. Sì. Quelli che invece tutti i momenti vanno anche per i motivi più banali, per sì. Cui effettivamente ognuno può al suo modo di approcciarsi ai problemi di salute. Comunque effettivamente se la tosse non passa entro pochi giorni o comunque non è riconducibile a una delle cause più comuni, un raffreddore, un raffreddamento invernale, allora è bene rivolgersi al medico e spiegargli i propri sintomi e cercare di trovare la soluzione. Come dicevamo prima, in attesa di trovare una causa e quindi di trovare una terapia eziologica, quindi causale, sì. Che vada a rimuovere la tosse dalla sua origine, si possono usare i sedativi della tosse calmanti, anche sì. Soprattutto per quella tosse che insorge durante la fase notturna e che quindi ci impedisce di riposare bene, sì. E quindi si possono usare dei calmanti per la tosse per mantenere un buon riposo notturno, oppure anche durante la fase diurna, se uno sa che deve andare in un posto dove deve parlare, dove comunque deve stare in pubblico con altre persone, deve mantenere relazioni sociali sì. O lavorative e non vuole avere questo inconveniente, allora può usare un calmante della tosse anche durante il giorno. Andiamo a Cagliari, anzi nella provincia di Cagliari c'è Giannino, 800 24 00 24. Giannino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va la tosse? Non bene, praticamente questa tosse mi viene in momenti, diciamo, allora innanzitutto quando sto per a pranzo, a cena, all'inizio, come i primi bocconi c'è questa tosse fastidiosa, sì. Io la chiamo tosse stizzosa, sì. o se no quando parlo con le persone, con le persone e addirittura al telefono, che io da tempo che la chiamo la tosse del telefono, quando mi metto a parlare con delle persone, in questo caso adesso non mi viene, però... Vede, allora io noi siamo stati sedativi della sua tosse. Dottor Ceriana, a volte la tosse è anche un po', non dipende solamente dai polmoni, ci sono ad esempio, sappiamo che anche il reflusso gastroesofageo può dare un po' di tossetta qualche volta, vero? Esatto. Il reflusso gastroesofageo è responsabile di una buona parte di tossi croniche e che vengono diagnosticate nel momento in cui abbiamo escluso le cause primitivamente certo. Respiratorie e allora andando a indagare la presenza di un reflusso gastroesofageo, anche se il paziente non riferisce proprio la sensazione di acido che ritorna su, intendiamoci bene. Però Giannino ha una tosse che arriva in momenti particolari, sempre gli stessi, prima di pranzo e al telefono, anche sì. Se adesso al telefono vabbè, ha parlato con noi, quindi è stato subito bene. Ma che cosa suggerirebbe lei a Giannino? Allora, la tosse che interviene durante le fasi del pasto, bisogna innanzitutto escludere che non ci siano dei piccoli episodi di inalazione, sì, di materiale alimentare, e anche il meccanismo della deglutizione è molto importante, perché noi nella nostra gola abbiamo uno sportellino che divide le vie aeree dalle vie respiratorie, che fa sì che noi quando mangiamo si chiuda perfettamente, in modo da proteggere le vie aeree contro l'ingresso di cibo. Se anche vi è una piccolissima quota di questo cibo, soprattutto i liquidi sono quelli che più facilmente vanno, sì, per traverso. Eccolo lì, arriva la tosse. Ecco che arriva la tosse. Allora, Giannino, possiamo dire, attenzione, forse è colpa dello sportellino. Andiamo a Luca da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Chiedevo questo cortesemente. Io ho un figlio di 4 anni e mezzo, sì, ha già subito un intervento di adenoidi, e di notte, quando ha difficoltà a respirare, incomincia a tossire, e di qui partiamo con un'escalation che dura diverso tempo. La tosse, chiedevo, sì, chiedevo l'uso eventuale, anche la frequentazione per le terme, che sentivo che andavate anche ad affrontare questo argomento, può, sì, essere utile in questo caso? Lei ha un tempismo, Luca, da Piacenza, perfetto, perché proprio Laura Vanossi, che doveva chiamare il dottor Fausto Bonsignori, che è in linea con noi, insomma, l'ha agganciato, specialista in idrologia medica e clinica termale, docente all'Università di Pisa e Milano. Dottor Bonsignori, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Arriva e le facciamo subito lavorare. Dottor Bonsignori, terme per i bambini, quando? Le terme per i bambini nel caso di tosse sono molto indicate. Sentivo i colleghi che mi hanno preceduto, quindi anche in caso di cura termale è necessario fare una buona diagnosi, capire qual è il vero motivo della tosse. E poi, una volta fatto buona diagnosi, si può affrontare alle terme la cura della tosse, del fastidioso sintomo tosse, con diversi tipi di acque, le acque solfure, che sono più per la tosse produttiva, per la tosse catarrale, e le acque salzo bromoioliche, che invece sono più per la tosse cosiddetta secca. Mi pare che avevate impostato un po'. Certo, abbiamo fatto questa grande distinzione, certo, e le stesse acque vanno bene per noi adulti. Certamente, ma per i bambini e per gli adulti, per entrambi, soprattutto alle terme si cura il sintomo tosse, ma si previene. Le terme sono uno straordinario presidio per la prevenzione del sintomo tosse, sono conseguenziali, sequenziali e complementari alle terapie mediche, alle terapie tradizionali, ma hanno un'azione di prevenzione straordinaria. Sia le acque salzo bromoiodiche sia le acque solfuree hanno un'azione detergente, hanno un'azione fluidificante, un'azione disinfettante e antinfiammatoria. Pensate che dopo una cura termale con le acque salzo bromoiodiche è stato dimostrato che nell'escreato della tosse, quindi nel muco, nel catarro della tosse, ci sono molte meno colonie batteriche, quindi anche un'azione disinfettante importante. Quindi è un presidio straordinario la cura termale, anche come aspetto soprattutto preventivo. Grazie dottor Bonsignori, quindi alle terme anche con i bambini. Buona giornata al dottor Bonsignori. Noi andiamo invece a Napoli, c'è Giampiero, buongiorno. Buongiorno, saluto un po' tutti della trasmissione. Ma sì, grazie Giampiero. io volevo chiedere una cosa, non per me, perché fortunatamente non ho mai la tosse. Volevo chiedere per i bimbi, sì, un'informazione. È vero che in effetti l'aerosol è un sistema molto efficace per quanto riguarda la cura o la sedazione della tosse? Grazie Giampiero, noi abbiamo in linea, Laura Vanossi è stata magnifica, abbiamo in linea il dottor Attilio Turchetta dell'unità operativa di broncopneumologia del Bambino Gesù di Roma. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi va così, vi agganciamo e ci sono gli ascoltatori che precedono ancora già il vostro intervento con la domanda, e quindi a domanda risposta. Buongiorno. A domanda risposta. Aerosol. I genitori sono sempre più bravi dei medici in genere, quindi sono sempre un passo avanti, anche perché stanno col bambino tutto il giorno, quindi. Certo. Sì, l'aerosol, dobbiamo sempre pensare che la tosse è un sintomo e non una malattia. Quindi noi dobbiamo capire per quale motivo c'è la tosse, sì, nel bambino. Nel momento che abbiamo identificato la causa, sì, l'aerosol è uno dei presidi più efficaci per ridurre la tosse, e può essere un aerosol molto semplice, fatto semplicemente con il più potente fluidificante che c'è in natura, che è l'acqua. che serve per proprio rendere più morbide le prime vie aeree, sì, e quindi come dare sciogliere il muco più superficiale, e poi può essere un aerosol in cui si aggiungono anche dei farmaci e questi possono andare a curare direttamente la causa della tosse, per esempio l'asma. Dottore Dario da Desenzano del Garda ci scrive: cosa si può fare per la tosse notturna che sveglia i nostri bambini e quindi anche i genitori? La tosse di notte dei bambini preoccupa sempre perché sembra di non riuscire mai a calmarla, a sedarla. Che cosa si può fare? Sempre dopo aver fatto una diagnosi eccetera, però sta tosse c'è, che facciamo? È abbastanza tipico che la tosse insorga la notte. Esiste un sistema regolatorio dell'organismo che determina proprio il fatto che in alcune ore della notte, principalmente fra l'una e le tre di notte, alcuni sintomi siano più evidenti, e la tosse è uno di questi. Sì. Generalmente quando il bambino presenta una forma di questo genere ha un problema col broncospasmo, ha un problema di asma. Sì. L'aerosol con la soluzione fisiologica e con i farmaci che il pediatra poi prescrive al bambino è sicuramente il sistema più semplice, il sistema migliore. Mi raccomando sempre, ma penso che già sia stato detto, ma no, ripetita iuvant, che gli antitosse sono dei farmaci che vanno usati veramente in casi molto selezionati, perché la tosse non è una malattia ma è un sistema di difesa importante, e quindi noi non dobbiamo spegnerla, dobbiamo aiutare il bambino, dobbiamo ridurla nei casi in cui è troppa e dobbiamo portarlo verso una guarigione, ma non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, spegnere il sintomo e far finta che tutto sia andato bene, ecco, questo è molto importante. Grazie, grazie dottor Turchetta per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo qui, tra poco con i rimedi della nonna. Voi che fate? Latte e miele, le pappettine con il semidilino? 800 24 00 24, a tra poco. Essere e benessere. Angelo ci chiama da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il mio problema è molto semplice, io faccio sport, corro anche d'inverno, anche adesso, non ho tosse. Quando rientro in casa, sì, ho tosse. Proprio quei 5 minuti dopo aver fatto, non so, un'ora di corsa o un'ora e un quarto di corsa, ho tosse per quei 5 minuti dopo la corsa. Dottor, grazie a lei Angelo. Dottor Ceriana, la moglie di Angelo, gli dirà: per andare a correre e poi venire a casa e tossire, stai a casa. No, scherzo. Oppure continua a correre e non tornare e più non a casa. Tornare, vai. Esatto. Ma è un cambio di temperatura? È un cambio di temperatura verosimilmente, e quindi bisogna indagare bene le circostanze, bisogna vedere se questo interviene appena lui finisce di correre e rientra in un ambiente chiuso, quindi bisogna vedere se lui finisce la corsa ed entra, sì, in casa, oppure se lui finisce la corsa e arriva in una spogliatoio di una palestra, si cambia e poi solo quando rientra in casa successivamente. Quindi il perché consiglio... ci deve essere una connessione temporale e per stabilire un nesso causale. Ecco, quindi il consiglio è magari di provare a cambiarsi, magari di stare un po' sul pianerottolo di casa. Esatto, ecco, di così non disturba la moglie. Brusco, di evitare questo sbalzo brusco di cambio di temperatura e di fare una specie di gradualità, come si fa nel bagno turco, in cui si passa attraverso temperature diverse, ecco, e quindi fare una fase di precondizionamento, magari, che ne so, nel garage, certo, di casa o comunque nel pianerottolo delle scale dove c'è una temperatura intermedia. Insomma, e poi... non deve andare di corsa, quando torna a casa deve andare piano. Piano. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Temporin. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta. Le nostre nonne si facevano le pappine, no? Con il, per con la il tosse, lino. Con il lino. E noi che cosa possiamo fare? Beh, diciamo che ci sono alcuni ausili naturali che possono venirci in aiuto per le varie problematiche legate alla tosse e soprattutto per le varie forme di tosse. Mm. E soprattutto, per esempio, in prima analisi, la Drosera rotundifoglia è una pianta che ha proprio proprietà antitussigene, è anche una sedativa della tosse antisettica e fluidificante del catarro. Quante cose questa Drosera! Sì, sì, sì, sì. Drosera rotundifoglia. è dal greco e sarebbe rugiada del sole, perché le goccine di mucillagine alla mattina con il sole proprio sono luccicanti. Allora, bollire limoni con niente zucchero, mi scrive un ascoltatore, è vero, fa bene per la tosse? Ma, diciamo, bollire limoni naturali e zucchero, no scusi ho sbagliato, bollire limoni, perché tutto abbreviato, e zucchero e basta, e berlo. Funziona? Sì. Allora, qui diciamo ci sono alcune diciamo, conclusioni da trarre, nel senso che sicuramente lo zucchero associato al limone può avere un effetto emolliente, però è altrettanto vero che eccedere nello zucchero, soprattutto quando c'è anche uno stato infiammatorio in generale, non è sicuramente consigliato. Piuttosto, eventualmente in natura esiste un'altra pianta, la Tussilago farfara, il cui nome proprio deriva da Tussilago, da allontanare la tosse, sì. La quale è un'ottima sedativa della tosse e anche un fluidificante dei catarri. Ecco, piuttosto un buon infuso di Tussilago farfara, magari con una goccina di miele magari balsamico, quindi di timo o di eucalipto, può essere molto più utile ed efficace. E questi possiamo darli anche ai bambini? Perché parliamo di ai bambini, spesso si suggerisce di fare l'aerosol, però non tutti i bambini gradiscono, come mi suggerisce il mio amico Carmelo Lauricella, che si certo. vede che ha provato proprio questo problema. Si possono dare queste erbe anche ai bambini? Allora, diciamo che ai bambini sopra i 2 anni possono essere utilizzate, però di solito io ai bambini consiglio un'altra pianta, un altro estratto, che è l'Altea officinalis, la quale è della famiglia delle malvace, come sì. la malva, ed è molto ricca di mucillagini. Queste mucillagini hanno questo effetto emolliente, quindi riescono ad ammorbidire la tosse, rendendola ovviamente più matura, e quindi i bambini poi riescono ad avere anche una capacità di eliminare il catarro in modo più veloce. Eventualmente un'altra pianta molto conosciuta qui italiana è il famoso timo, che soprattutto per quanto riguarda la tosse grassa, la tosse catarrale, ha un potere sia antisettico ma anche è un espettorante. Dottor Temporin, grazie. Senta, però dopo tante tosse d'inverno i bambini sono un po' gracilini, debolucci, sai che noi mamme vogliamo sempre dare qualche cosa che li tiri su, l'olivello spinoso, mi piacerebbe. Eccezionale, Nicoletta. Vado allora, dai, olivello spinoso, se vi sentite giù dopo influenze, raffreddore, tosse e quant'altro. Dottor Temporin, grazie per essere stato con noi. Ricordo, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Ha visto che sono riuscita a dirlo tutto? Dottore, grazie. Noi vogliamo, parlando di tosse, sappiamo che è anche il sintomo di una malattia che ancora oggi spaventa, è una malattia contagiosa che, nonostante sia prevenibile e curabile, rappresenta ancora oggi una emergenza sanitaria. La tubercolosi, ne parliamo oggi con il dottor Giorgio Besozzi, direttore del Centro di Formazione Permanente dell'Associazione Pneumologi Ospedalieri di Villa Marelli, ospedale Niguarda. Dottor Besozzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a voi. Torneremo a parlarne il 24, c'è una giornata ad hoc, ma proprio in chiusura. Un'indicazione che lei vuole darci, che è importante conoscere. Ma guardi, sono due le indicazioni. Bene. Una, che la tubercolosi non è affatto scomparsa e dobbiamo sempre avere una certa vigilanza nei confronti della malattia del passato, ma che si ripropone ancora oggi. Due, può servire agli ascoltatori evidentemente, una tosse che non passa dopo 15 giorni, 3 settimane di terapie convenzionali, sintomatiche o anche antibiotiche, impone un accertamento successivo, che è quello della radiografia del torace, sì. che serve non soltanto per la tubercolosi ma anche per altre malattie, però soprattutto per la tubercolosi, perché intervenendo con una diagnosi precoce, con un trattamento precoce, evitiamo ovviamente il contagio verso altre persone, quindi una sorta di prevenzione nei confronti della collettività. Torneremo a parlare in occasione del 24, intanto grazie al dottor Besozzi e al dottor Piero Ceriana, a voi che ci avete seguito, siete intervenuti, vi siete raccontati. Io vi aspetto come sempre, no, domani no perché oggi è venerdì, vi aspetto lunedì, fantastico, ci sentiamo lunedì, buona giornata. Essere e benessere.